Radio 24. Libera la voglia di fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Abbiamo avvertito prima un boato e dopodiché c'è stato il terremoto, è stato sul sussultuoso, perché abbiamo avvertito la sensazione di come quando stai su un autobus affollato su una strada di sestate. Questa richiesta del magistrato non me la spiego, anche perché basterebbe fare un giro con le vostre telecamere per rendervi conto che le case crollate sono immobili di vecchia data, molto vecchia. minuti, buonasera a tutti cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Si può fare, stiamo insieme fino alle 20. 800 24 00 24 per intervenire in diretta tutta la sera. Allora, avete sentito le voci, il sindaco di Lacco Ameno, Pascale, ma non è l'unico, tutti i sindaci di Ischia appena hanno sentito parlare di abusivismo hanno scritto un comunicato congiunto nel quale dicono che l'abusivismo con il terremoto, con i crolli dovuti al terremoto, non c'entra assolutamente niente. Ischia, 60.000 residenti, 27.000 domande di condono, 600 le case da abbattere con sentenza definitiva, 27.000 domande, 30.000 praticamente, una ogni due abitanti. Ma dicono i sindaci di Ischia, l'abusivismo non c'entra assolutamente niente, che è un po' come dire che le case abusive sono più sicure di quelle altre, perché se uno dice che non c'entra assolutamente niente, non c'è alcuna relazione, non ci può essere una relazione tra l'abusivismo e i crolli dovuti al terremoto, è come dire che le case costruite abusivamente sono più sicure, sono più solide delle altre. È quasi questo, no? Che sarebbe un capolavoro di vittimismo, una vetta proprio incredibile. Però staremo a vedere, perché ci sono gli abusi, ma naturalmente ci sono tante altre cose che non sono state fatte, lo sappiamo, si dice sempre, i piani di informazione nelle scuole, i piani di evacuazione che dipendono dalle regioni, la manutenzione, la spesa per la prevenzione, che anche questa non viene fatta e non dipende tutto solo dagli abusi, questo naturalmente. 800 24 00 24, il presidente di Lega Ambiente, sentiamo. In un fenomeno di amplificazione sismica locale, in particolari condizioni geologiche, si possono verificare notevoli amplificazioni sismiche, e poi bisogna tener conto della tipologia edilizia, quindi non sappiamo gli edifici che sono crollati di che epoca erano, se erano stati verificati, se avevano subito lavori di bonifica, di miglioramento, bisognerebbe capire bene di che edifici stiamo parlando, non penso si tratti di edifici di nuova costruzione. Allora, anche Lega Ambiente, anche il presidente di Lega Ambiente, Ischia però stiamo parlando, è molto possibilista, non è detto che sia legata agli abusi, non è detto che siano case nuove, potrebbero essere antiche, eccetera, eccetera. Capiremo tra un po', sentiremo anche un sindaco di Ischia, non il sindaco di Ischia, ma un altro sindaco, per capire quali sono gli edifici che in effetti sono venuti giù. Allora, però vi faccio sentire anche Salvini sulla foto postata da Don Massimo Biancalani, che ha portato alcuni profughi in piscina a Pistoia. Fare richiedente asilo in Italia è un mestiere mica male, perché se stai in una cooperativa 35 ore al giorno, 2 ore e mezzo al giorno e aspetti almeno un anno senza muovere un dito. Però, e scusi, quindi siccome tanti italiani in piscina quest'estate non ci sono andati, io faccio appello a Don Massimo affinché porti in piscina anche qualche milione di bambini che non si sono potuti permettere le vacanze. Allora, tutto quello che vuoi, la foto probabilmente era inopportuna perché scatena sicuramente delle polemiche, sa di fancazzismo a spese del contribuente, però non erano in un resort alle Maldive, non vedo lo scandalo. E poi, bisogna anche dirlo, le colonie estive per i bambini ci sono, Salvini ci sono, lo sappiamo tutti che ci sono. Certamente questa foto postata dal prete che l'anno scorso voleva far pregare i migranti in chiesa, eccetera eccetera, sa un po' di provocazione, questo sì. Don Biancalani lo sentiremo dopo. Sentiamo però anche uno dei migranti, perché poi cosa è successo dopo? Gli hanno forato le biciclette, perché evidentemente a qualcuno non è andata giù, non solo a Salvini ma anche a qualcuno del posto. Io ho visto questo come un razzismo per andare i ragazzi a piscina o al mare. Io non ho visto questo come un problema. Ho visto questo come c'è alcune persone che hanno i vostri menti molto chiusa, è molto molto chiusa, perché noi siamo uguali. Io non credo in razzismo. In quest'estate ho incontrato migliaia di persone, ho parlato con parroci, suore, frati, missionari che sono in Africa e mi dicono: Salvini tieni duro. L'interesse degli italiani e degli immigrati regolari presenti in Italia è di non avere un'immigrazione fuori controllo, 200.000 sbarchi all'anno, regalare cittadinanze, regalare diritto di voto, anche perché in Vaticano, se vogliamo essere rigorosi, non esiste lo ius soli, non esiste, se voi andate a chiedere la cittadinanza stasera difficilmente ve la danno, la cittadinanza va meritata. Salvini ancora sulla questione dello ius soli, la legge che il governo vuole approvare alla ripresa a settembre. Si dice ius soli, però ricordiamo che non è uno ius soli automatico, nasci alla cittadinanza, ma dopo un po' di tempo, iscritto alla scuola, il bambino eccetera eccetera, più, molto più rapidamente di adesso avrebbe la cittadinanza. Uno ius soli che temperato, come dire, moderato, modificato, ci vuole comunque del tempo. Sentiamo come il sindaco di Venezia, Brugnaro, invece affronterebbe l'emergenza terrorismo. Che spariamo, questo è quello che fermo, cioè gli spariamo. Prima ancora meglio, se ce lo dice prima gli spariamo ancora prima, cioè così abbiamo. No, parliamoci chiaro, il buonismo è finito. Se tu vuoi ammazzare me, magari io mi difendo. A Venezia ci difendiamo. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Andiamo a Ischia, è con noi il sindaco di Forio, uno dei comuni di Ischia, Francesco Del Deo, buonasera. Buonasera. Allora, le ultime notizie che abbiamo sono 2 morti, 39 feriti, 2600 sfollati. È questa la situazione, sono questi i dati che anche lei ha a disposizione in un comune, diciamolo, non direttamente colpito per quanto riguarda i crolli a Forio, giusto? Sì, sì, Forio. Forio, scusi, Forio. Senta, allora, ci sono stati 2 morti, 4 feriti gravi e diciamo il resto sono feriti lievi che sono stati subito dimessi dall'ospedale. Sì. Quindi naturalmente il bilancio per i 2 morti, anche se molto limitato, è sempre diciamo un momento triste. Il suo comune non è stato, non ha avuto crolli? Ma nel comune di Forio, né Ischia, né Barano, né Sesterrara, io ho avuto un crollo soltanto di una vecchia cantina. Sì. Una cantina che aveva 200 anni. per di più non era nemmeno più, diciamo, utilizzata. Poi, diciamo, danni strutturali veri negli altri comuni non ce ne sono stati. Purtroppo sono stati interessati solo alcuni siti del comune di Casamicciola, sì, e proprio una piccolissima parte del comune di Laccameno, che è confinante col, sì, comune di Casamicciola. Quali sono gli edifici che sono crollati, che sono venuti giù? Lei è riuscito a capire? Sì, sì, no, io mi sono recato sul posto ieri sera. Sì, se perché si è parlato di una chiesa antica, si è parlato subito di abusivismo, sì, eccetera, eccetera. Ma quali sono gli edifici? Una chiesa antica del... Allora, abusivismo, qui ogni volta che si parla sempre di abusivismo. Sì, no, però un momento, prima di arrivare all'abusivismo, sì, sindaco, le volevo proprio chiedere, sì, che tipo di edifici sono venuti giù a Casamicciola? Sono venuti giù edifici a Casamicciola, diciamo, civili abitazioni, ma sono abitazioni, diciamo, molto vecchie come abitazioni, alcune anteguerra, alcune subito post-guerra, ci sono anche qualche casa che è fine 800, inizio 900, quindi non sono edifici di nuova costruzione, perché tutti gli edifici di nuova costruzione hanno retto bene, solo che quando si costruiva all'epoca si costruiva con le cosiddette pezzotte, e quindi erano questi edifici fatti con muri a sacco che venivano giù, oppure con un tipo di mattoni molto, diciamo, molto leggeri, mattoni che all'epoca non erano nemmeno vibrati, quindi sono edifici vecchi che sono venuti giù. L'abusivismo non c'entra niente su però, questa. E voi dite non c'entra niente, avete scritto anche un comunicato, tutti i sindaci di Ischia, sì, dell'isola di Ischia, sì, per dire che non c'è alcuna relazione, nessuna relazione. Relazione. Però non è un po' troppo forte questo. Sarebbe come dire che le case abusive allora sono più solide, meglio costruite delle altre. E purtroppo, guardi, abbiamo potuto constatare che le case, diciamo, abusive, diciamo, hanno retto come hanno retto anche le case legittime, le case autorizzate, perché sono con materiali, diciamo, con nuovi materiali di costruzione, quindi hanno retto anche per questo, hanno retto, perché alcune sono in cemento armato, altre sono invece in pietra in tufo con degli spessori abbastanza lungo grossi, quindi hanno retto. Quelle che sono venute giù, sì, e come si è visto in Umbria, che sono venute giù, dunque case diciamo vecchie con questi muri a sacco. Ma vecchie ma non vecchissime spesso, si tratta anche di case costruite negli anni 60-70, per quanto riguarda le Marche e le Centro Italia. Per quanto riguarda invece, diciamo, qua Ischia, sono, diciamo, case molto vecchie, che poi manca a farlo apposta, è la parte più, diciamo, è la parte più antica di Casamicciola, si può dire, questa parte qui. Hanno avuto, poi Casamicciola è sismica da sempre, non dobbiamo dimenticare il terremoto del 1883 che fece circa 2000 morti. Zona media sismicità, si è detto, media sismicità. Però poi col tempo ci siamo accorti che tutta l'Italia è sismica. Allora, cioè, veramente dobbiamo cominciare a ragionare, diciamo, seriamente con dei provvedimenti, cioè il Parlamento. Ma seriamente come, però, sindaco? Perché il punto è questo: voi rifiutate un collegamento con l'abusivismo, perché dite giustamente non sono venute giù le case nuove, sono venute giù quelle vecchie. Però un sisma di 4.0, secondo la maggior parte dei geologi, non avrebbe dovuto causare comunque questo tipo di danni. Come se lo spiega? Io ho visto che siamo, si può dire, quasi in una statistica giapponese: 4.0, cioè quel tipo di case doveva per forza venire giù, perché, diciamo, ripeto, sono delle case molto vecchie, costruite con delle tecniche, diciamo, addirittura con calce, prive di cemento, spesso con spessori di muri molto, diciamo, molto sottili, perché probabilmente avevano dimenticato il terremoto del 1883. Poi, se lei vede, il PAI è uscito addirittura nel 2008 per quanto riguarda il discorso del dissesto idrogeologico, del rischio sismico. Io credo che tutto con delle leggi ad hoc, con le leggi veramente che danno la possibilità di completare e di mettere in sicurezza, potrebbero, insomma, mettere in sicurezza. Però, diciamo, sindaco, il punto è anche un po' italiano. Sì, ce lo diciamo ogni volta, il punto è un po' questo, perché dopo il terremoto siamo bravi nell'emergenza, si comincia a parlare della fase di passaggio, la transizione, l'emergenza, però poi la prevenzione vera non la fa nessuno. Come si fa a far rispettare le leggi esistenti, la prevenzione, in un'isola dove però ci sono 30.000 domande di condono, cioè per condonare un abuso, no? C'è qualcuno che ha costruito fuori legge e che vorrebbe che questo diventasse dentro la legge. Diciamo, come si fa? Che circa il 72-73% di queste 30.000 domande riguardano portici, balconi, diciamo piccoli abusi, piccoli interventi. Sì, ma non è che il punto del portico della cantina o dell'edificio, però scusi, lei dice che bisogna rispettare le leggi per fare la prevenzione in Italia, le leggi che ci sono, ma se invece da un altro punto di vista le leggi che regolano le costruzioni in Italia non vengono rispettate lì, perché praticamente ogni abitante, non lo so, lei avrà fatto anche lei domanda forse per un condono? Ce l'ha lei una domanda pendente? No, però 30.000 su 60.000 vuol dire che... Francesco Del Deo non troverà niente. Va bene, no, contando anche i bambini, ogni due abitanti c'è una domanda di condono. Sì, ma guardi che noi siamo nella media nazionale, in qualche regione siamo al di sotto della media nazionale per quanto riguarda gli abusi. Ripeto, se il numero degli abusi va visto col numero della richiesta dei condoni è una cosa, se il numero degli abusi invece va visto proprio sulla specificità dell'abuso, sulla quantità dell'abuso, allora dunque, diciamo, è un'altra cosa. A Ischia ecomostri non ce ne sono, insomma, quindi questa è la cosa. Io sfido di chiunque venire a Ischia a dire se ci sono ecomostri. Quindi noi dobbiamo fare una prevenzione per quanto riguarda... Pronto, mi sente? Sì, la sentiamo. Noi dobbiamo fare, diciamo, tante prevenzioni. Dobbiamo fare una prevenzione per quello che riguarda la sismicità, dobbiamo fare delle prevenzioni per quello che riguarda l'antincendio, perché quest'anno abbiamo avuto, solo qui a Foria abbiamo avuto quasi 200 ettari che sono andati a fuoco. Anche quello è colpa dell'abusivismo? No. Quindi è tutto, diciamo, sono zone libere. Allora il discorso qual è? Per far sì che veramente si possa giungere a una conclusione, bisogna sburocratizzare, perché a furia di dire al cittadino sempre no, poi si spinge il cittadino all'abusivismo. Allora bisognerebbe dire... Il famoso abusivismo di necessità, lei concorda su questa definizione? Io concordo sull'abusivismo di necessità assolutamente, perché qui quando noi andiamo a vedere spesso... Troviamo chi ha tre piccoli appartamentini che magari nel periodo d'oro, se andiamo a vedere di chi erano questi appartamenti, erano di un lavoratore alberghiero che smetteva di lavorare, si metteva padre, madre, figlie, fratelli e sorelle e si costruivano queste case. Oggi a distanza del condono 85, del condono 94, hanno già figli che hanno 30 anni che devono entrare in queste case, quindi anche quelle edilizie di necessità. Poi dobbiamo pensare a un fatto molto importante, cioè al discorso delle isole minori. Quando insomma si viene accusati che l'abusivismo esiste perché non è stato fatto il piano regolatore, cioè se fosse stato fatto il piano regolatore probabilmente molte famiglie oggi vivevano ancora nelle cantine, perché la normativa per i piani regolatori è fatta per la terraferma. Le faccio un semplice esempio. Però scusi, la fermo un attimo su questo concetto di abusivismo di necessità, perché il cosiddetto DDL Falanga, che è in discussione, è stato approvato in Commissione Senato, introduce proprio questi criteri per le demolizioni degli edifici abusivi e mette all'ultimo posto gli edifici abusivi per necessità. Siccome sappiamo benissimo che non ci sono i soldi per demolire tutto, quegli edifici lì non verranno mai demoliti. Lei è d'accordo? Lei devono rimanere in piedi quegli edifici lì? No, guarda, allora io invece vorrei porre un altro aspetto. Allora, oggi c'è un patrimonio in parte, diciamo, legittimo e in parte illegittimo. Parliamo tanto di ambiente, parliamo tanto di ne parliamo parliamo tanto di recupero. Allora io dico questo: il danno è maggiore se a un certo punto noi vogliamo demolire e già non abbiamo le discariche per l'immondizia, quindi dobbiamo creare le discariche anche per i materiali di risulta che verranno poi... Vabbè, ma che c'entra? Quelli le vengono recuperati, riciclati, i materiali. Se una casa deve essere... Se un edificio... scusi, sindaco, lei dice non abbattiamoli perché non sappiamo dove mettere le macerie. Aspetta. O il danno è minore se invece diamo delle indicazioni di come devono essere rifinite da un punto di vista paesaggistico, da un punto di vista sismico. E quindi, cioè lei dice a questo punto il balcone abusivo me lo abbellisco e lo rendo conforme al paesaggio. Cioè, naturalmente, quando c'è un ecomosso, allora lo posso anche dunque capire, ma quando noi parliamo di piccoli abusi oppure di edilizia di necessità, io credo che sia meglio dare invece delle indicazioni, delle direttive che ci dicono come bisogna farlo paesaggisticamente, come bisogna farlo per metterlo dunque in sicurezza, come fatto sì. Cioè, praticamente, ripeto, il piano di sopra o la cantina o il balcone lo rendiamo conforme al paesaggio, cioè si abbellisce l'abuso edilizio. No, non è questione di si abbellisce l'abuso edilizio, perché guardi, famoso urbanista, non ricordo il nome, che era addirittura quasi un extra parlamentare, quando venne a Ischia tanti anni fa, che si parlava di colate di cemento, colate sì. di cemento, quando venne qui a Ischia, io gli feci fare un giro a Ischia, poi alla fine diventammo anche amici, e questo disse: guarda, ma qui è tutto recuperabile. Però vabbè, però mettiamola così, mettiamo che abbia ragione lei, che sia tutto recuperabile. Chi sì. paga le spese per, non tanto per abbellire il balcone abusivo, che secondo me andrebbe sì. eliminato, però per mettere in sicurezza gli edifici che sono a rischio sismico in una il zona. Il proprietario deve pagare le spese per mettere in sicurezza il rischio sismico. Il proprietario. È logico questo, non possiamo pretendere che lo Stato o l'ente pubblico lo faccia. E se il proprietario dice di non averli questi soldi, che facciamo? Se il proprietario dice che di non averli questi soldi, mi sembra una cosa un po' strana, perché pur di diciamo avere la casa tutti fanno sacrifici, diciamo, questo poi è il problema del diciamo poi. Allora si possono prendere delle altre misure, delle altre cose, insomma. Va bene, grazie, buona serata. Va Del bene, Deo, grazie, buona serata il sindaco di Forio, comune di Ischia, che non ha riportato danni, ma che, come tutti gli altri sindaci, ha firmato questo comunicato nel quale assolutamente dicono che l'abusivismo edilizio non c'entra niente con i crolli dovuti al terremoto. Siete d'accordo col sindaco? Dai messaggi, direi non molto, cari ascoltatori. 800 24 00 24, borsa. Fiera del Levante, riscaldamento a legna e pellet, pftecnologie.it. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 18 e 33 minuti, aspetto i vostri interventi all'800 24 00 24, soprattutto sull'intervista al sindaco di Forio, a Ischia, Del Deo, che secondo me si è un tantino arrampicato sugli specchi. E poi vi chiedo, cosa fare in realtà? Perché va bene l'abusivismo, però abbattere gli edifici? Secondo voi bisogna abbattere questi edifici? Fare la manutenzione? Ma chi deve pagarla la manutenzione? I privati, che spesso dicono non hanno i soldi, allora siamo appunto da capo, non la fanno e gli edifici crollano. Allora dovrebbe farlo lo Stato. In fondo diamo gli incentivi al 50% per ristrutturare la cucina o allargare la camera dei bambini. Quindi forse si potrebbe dare un incentivo del 100% per fare la manutenzione degli edifici nelle zone sismiche. 800 24 00 24. Andiamo con Claudio, che chiama da provincia di Verbania. Vai Claudio, ci sei? Sì. Ho sentito il sindaco che parlava di queste cose, però dico, è stata una piccola scossa, ma immaginiamoci che, siccome penso che Ischia sia una zona sismica notevole, se veniva una scossa del 6.0 come quella che è avvenuta in centro Italia, mille volte sarebbe ho sentito qualcuno, Boschi credo, dire che sarebbe mille volte l'intensità maggiore rispetto a mille volte. Quindi immaginiamo cosa, oddio, ci sono molti stabili che sono tranquilli, che sono senz'altro sicuri, però se con una piccola scossa abbiamo due morti e 50 feriti, immaginiamoci con una grande scossa. E poi nessuno parla se è ripetitiva questa scossa, perché ce n'è venuta una, nelle Marche ne avviene il 3.6 tutti i giorni, non lo so io, quindi è tranquillo, anche per il fatto che devo venire a Ischia, quindi voglio sapere se... Ah, deve andare a Ischia lei in questi giorni? Il mese di settembre, certo. Sì. Prezzi delle abitazioni in ribasso, mi dicono questo, perché naturalmente adesso sono 11.000 turisti che se ne sono andati, e quindi. Claudio, grazie, buona serata. Maria da Gorizia, Maria. Ah, buonasera. Eccola. Io telefono esattamente da Grado, provincia di Gorizia. Sì. E volevo dire questo, ma la parola, il significato della parola legalità, questa gente la conosce o non la conosce? Sarà perché noi abbiamo una mentalità, parliamo austro-ungarica, va, che così è meglio. Pronto? No, no, no, Maria, ridevo perché la mentalità austro-ungarica contrasta un po' con quello che diceva il sindaco. Cerchiamo sempre di essere nelle regole, ci sarà pure qualcuno scriteriato, ma qua praticamente tutto quello che riguarda quelle regioni là è una cosa indecente, no? Perché basta parlare di quello che succede negli ospedali, e poi mi ricordo ancora anni addietro che si parlava di tutte le case che sono sul fianco del Vesuvio, no? Sì. Non sono che là. Cioè, pronto? Sì, sì, la sentiamo, Maria, vai. Dei rumori molesti. No, ma che molesti? Qualcuno... È un po' di musica, c'è un po' di musica, Maria. Qualcuno non vuole che parli così. Ma comunque dico io che la parola legalità da parte di chi rappresenta il cittadino dovrebbe essere un messaggio che basta, abusi, non abusi, è ora di finirla. Non si può fare quello che si vuole, e se le istituzioni, addirittura c'erano quelli che addirittura i preti hanno fatto un corteo, sì, con tutti quelli che erano contro la demolizione. Addirittura è successo un po' tempo fa. Addirittura il sindaco del Deo di Forio ha detto che vorrebbe avere i criteri per poter, diciamo, rendere conformi gli abusi edilizi al paesaggio, quindi abbellire il balcone abusivo, la veranda abusiva, eccetera eccetera. Quindi Maria, mi sa che siamo su due piani diversi lì, da voi a Ischia. Grazie Maria, buona serata. Andiamo con Michele, che chiama da Frosinone. Sì, buonasera. Io volevo solo dire, a prescindere adesso dal terremoto di Ischia, sì, per l'abusivismo, un discorso è l'abusivismo, un discorso è il terremoto. Certo, se avviene un terremoto mille volte superiore, penso, come è successo in altri casi, che sono cadute anche costruzioni con regolare concessione edilizia. Sì, ma certo, ma non è che lo stop all'abusivismo ci metterebbe al riparo dai crolli. Però non è che possiamo neanche dire l'abusivismo non c'entra, non c'entra nulla, e ogni volta crolla tutto, però. Sì, è giusto. Volevo però aggiungere che c'è un tipo di abusivismo e un altro tipo. Per esempio, sì, chi ha fatto per necessità, tra virgolette, potrebbe darsi che abbia rispettato le norme antisismiche. Quindi non sono tutte uguali le costruzioni abusive. Sa cosa ci vorrebbe, Michele? No, ci vorrebbe il certificato di fabbricato, che in Italia non esiste, esiste in altri paesi. Cioè ogni fabbricato dovrebbe avere una carta d'identità nella quale si dice cosa, come è stato fatto, per cui magari uno che ha fatto un abuso, però come dice lei l'ha fatto a norma antisismica, allora potrebbe essere nella graduatoria a salire qualche posizione legittimamente. Però questa cosa non si fa, lo sa perché? Perché altrimenti il patrimonio immobiliare degli italiani cadrebbe giù, perché un terzo degli edifici sono con le pezze, e quindi non si fa. E sarebbe l'ideale, però molte costruzioni abusive che hanno avuto il condono, sì, ci è servita la perizia giurata di un tecnico, e quindi questa perizia giurata ha un suo valore circa le modalità di costruzione. Non solo, ma una volta costruito una casa, un edificio, no? Il proprietario ha speso i soldi per il materiale, ha speso i soldi per pagare, sì, gli operai, ha fatto pagare. A un certo punto uno si ricorda di abbattere, ma se c'è un reato, non c'è anche a monte, nel senso chi non ha visto che questa persona stava costruendo? E facciamo pagare anche chi non ha visto. Quindi Michele, se ho capito bene, anche lei sostiene che queste case condonate sono più solide di quelle altre, delle case in regola. Se le perizie giurate sono effettivamente fatte con criterio, sì, sicuramente. Cioè uno fa una casa in regola con le norme edilizie oggi esistenti in, esatto, Italia, e quella è meno solida di uno che ha fatto l'abuso, però ha avuto il condono, lei dice, quindi c'è stata una perizia che l'ha... Sì. Che l'ha... Per esempio può essere una costruzione abusiva che ne rispettava i limiti del confinante, quindi non poteva avere la concessione edilizia, però la casa potrebbe essere costruita con tutti i criteri, con tutti i crismi. Cioè, sicuramente è affascinante, questa tesi è molto affascinante, ci sono abusivismi. È delirante, è anche abbastanza delirante questa tesi, mi permetta Michele, ma mi piace anche la fantasia con la quale si arrivi a immaginare che una casa abusiva sia più solida di una costruita in regola. Questo devo dire che Comunque ci vuole un po' di fantasia. Può darsi anche che sia vero quello che dice lei, in alcuni casi, non lo so. Grazie, buona serata. Antonio da Roma. Buonasera. Buonasera. Senti, io vorrei fare una domanda a Salvini. Sì. Per quanto riguarda la cittadinanza per i bambini nati in Italia. Allora, io conosco casi dei bambini che sono nati qui che parlano l'italiano meglio dei nostri figli, che i genitori qua pagano tasse, stanno da 40 anni, contribuiscono allo Stato italiano. Per quale motivo ogni anno un bambino di quelle dovrebbe scadere un permesso di soggiorno, un libretto sanitario? Perché io ne ho visti di tutti i colori, perché ci sta gente che lavora con noi, che ti dice delle cose che da brividi, ma persone per bene. Cioè? Cioè che devono fare festa per andare in questura a prendere il numero e poi preparare tutti i documenti. Chi gli paga questa gente per quando fanno festa, che poi i bambini sono italiani a tutti gli effetti? Perché non diamo la cittadinanza a un bambino nato qua? Perché in America, quando noi italiani nasciamo in America, ci danno la cittadinanza americana? Vabbè, cioè, ogni paese ha delle regole, però non è che tutti i paesi sono uguali. In altri paesi europei. Indietro, no, non è vero, non è che in tutti i paesi. Non è che in tutti i paesi c'è lo ius soli. Ma tu mi dica quali sono i paesi che non concedono la cittadinanza americana? L'Inghilterra. E poi? Altri paesi europei. Comunque neanche questa qua sarebbe uno ius soli. Sarebbe che il bambino, dopo un po' di tempo che sta in Italia, adesso non ricordo esattamente le cifre esatte del tempo, ma l'iscrizione alla scuola, non è che all'atto della nascita automaticamente avrebbe la cittadinanza. Questo sarebbe lo ius soli assoluto. Comunque le dedichiamo Salvini. Da politico italiano pagato dai cittadini italiani, io metto al primo posto gli italiani. Ma rimaniamo... E quella minima parte di immigrati che scappano davvero dalla guerra, che hanno diritto di essere qua, perché di pagare colazione, pranzo e cena in albergo, come avviene a Bormio, nella via principale del paese, in un albergo a 3 stelle, da mesi e mesi a decine di ragazzotti di 25-30 anni che non fanno niente dalla mattina alla sera se non ascoltare la musica dalle cuffiette, questa non è accoglienza, questa è demenza. Allora, ancora ascoltatori, andiamo con Giacomo che chiama da Roma. Buonasera. Pronto? Giacomo, eccolo. Ecco, no, chiamo da Ancona. Va benissimo, meglio, da Ancona. Ecco, quindi noi siamo abituati ai terremoti. Sì. Io ho 54 anni, sì. Ho vissuto il terremoto del 72 ad Ancona e le dico che nel 72 Ancona non era stato introdotto il calcolo della sismicità nel calcolo delle strutture. Eppure nessun anconetano è morto sotto le macerie, un signore purtroppo è morto di infarto, ma palazzi si sono crepati, hanno avuto problemi, ma non sono implosi, non sono crollati. E a me, devo dire, ha fatto specie il sindaco di Torino che dice, beh, se l'abuso è di necessità, allora si può tollerare. Giacomo, ma puoi togliere il viva voce e parlare direttamente al telefono? Sì, guarda, grazie. Allora, aspetta che te lo tolgo. Sì. Allora, mi senti? Sì, meglio, vai. Allora, quello che il sindaco deve ricordare è che una struttura deve essere calcolata, deve avere un progetto, e spesso l'abusivismo, anzi direi sempre, perché non penso un collega si metta a progettare, calcolare una struttura abusiva, nasce dal self-made, quello che dice ma io le cose le ho fatte bene perché me le sono fatte da solo, però quel calcolo è ciò che tutela. Quindi queste strutture, più delle volte, sono tutte senza calcolo, sono fatte così al vogliamoci bene, ho fatto le cose fatte per benino, e poi crolla, però. Va bene, devo dare la linea al traffico, grazie anche a Giacomo, buona serata, 800 24 00 24, torniamo tra poco con Don Massimo Biancalani che ha portato a Pistoia i profughi in piscina. Si può fare. Cronache da un paese migliore. After all the way we see, I got my hands from the machine. Allora, eccolo qua, il Don Massimo delle polemiche. Don Massimo Biancalani, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, no, delle polemiche. No, delle polemiche, perché Salvini... è il mio mestiere, se poi qualcuno vuole commentare, purtroppo... Però può... lei ha messo su quella foto, perché io dico, io non penso ci sia niente di straordinario se dei ragazzi richiedenti asilo, profughi, migranti, vanno in piscina, pagano il biglietto, non c'è niente di... non erano in un resort alle Maldive a spese dei contribuenti. Però, la foto, in effetti, sa un po' di... Allora, bisogna un cioè, lei voleva far arrabbiare Salvini, dica la verità. No. Conoscendo un po' la situazione, ho immaginato che qualcuno potesse irritarsi. Ma allora io e non ha esitato però a piazzare lì la foto, anzi forse allora, aspetta, scusa, perché allora io puntualmente racconto, uso Facebook un po' come Twitter, giorno giorno metto una foto, un pensiero sulle cose che facciamo, commenta le cose d'attualità, così senza, è una cosa che cioè, le piacciono i social, che... ama comunicare con i suoi, lo amo, lo uso, è ormai lo posso dire. Quindi per far conoscere agli amici, sono insegnato tanti ragazzi, miei studenti, ai parrocchiani stessi, quello che poi via facciamo. Allora, quell'iniziativa fa parte di una proposta di un percorso di accoglienza dove c'è appunto l'aspetto formativo, c'è l'aspetto sportivo con i ragazzi che abbiamo, quindi la fatica di calcio piuttosto che di pallacanestro con i ragazzi. Sì. Questi ragazzi, diciamo, per esempio, che storia hanno, Don Massimo? Che storia hanno? Quanti sono? Da dove vengono? Terribile. Voi, se avete visto le cose, vedete bellini, sorridenti, ecco, ma hanno tutti storie di grande povertà alle spalle. Da dove vengono questi ragazzi? Da zona subsahariana. Quindi si va dal Senegal al Gambia, tantissimi dal Gambia, Nigeria, Costa d'Avorio. Ma sono proprio profughi richiedenti asilo o sono migranti? Allora no, aspetta, perché qui questo è distinto. Allora, loro sono richiedenti, tecnicamente richiedenti asilo. Poi la distinzione tra profugo per motivi economici oppure perché scappano a guerra, questa è una distinzione, secondo me, fa acqua da tutte le parti. Perché? Comunque, perché fa acqua da tutte le parti? Perché ci sono zone di guerre, zone con dittature, zone dove c'è povertà. Però in Nigeria ufficialmente non c'è una guerra conclamata, ma si deve, cioè, voglio dire, si sa che cosa significa vivere in Nigeria? C'è la mafia, c'è la corruzione, si sa che cosa sta facendo la nostra ENI, Ente Nazionale per gli Idrocarburi. Cosa sta facendo l'ENI? Eh beh, c'è un inquinamento, c'è una vabbè, guardi, questo... l'inquinamento e la mafia ce l'abbiamo anche noi, questo. Siamo noi, par condicio. Diciamo, a casa loro, ma si deve fare in quel modo lì, come si fa a darle a casa loro? Se gli si porta le armi, gli si porta quel tipo di industrializzazione. Cioè lei comunque è tra quelli, non è l'unico che è contrario alla distinzione tra profughi e migranti economici. È complessa la cosa, perché cambia. In Gambia non c'è una guerra, ma in Gambia c'è stata una dittatura feroce. È un paese ridotto, mangiano i topi. Cioè la gente lo sa che lì si mangia i topi. Sì, beh, comunque ci sono dei criteri, no? Poi per dare l'asilo alle persone, ci sono dei criteri che nascono da valutazioni che lei non condivide, però che fanno una priorità tra i bisogni. Infatti, a differenza di quello che dice banalmente Salvini, le commissioni territoriali sono commissioni serie che impiegano tanto tempo perché devono valutare le singole storie. Sì, anche troppo, quello lo sappiamo, anche troppo. Sì, spesso troppo, guardi, ma non è facile capire un ragazzo che ti dice che viene magari dal Biafra, e Biafra ce lo siamo dimenticati, cos'è il Biafra, ci deve verificare se effettivamente fugge perché magari è perseguitato per motivi politici. sono queste cose le omissioni, cioè non è che si scappa solo dalla Siria. Però scusi, tornando un attimo a quella cosa della piscina, no? Ci siamo un po' distratti, perché ha fatto scalpore questa cosa, Salvini si è infuriato, poi ha ricevuto anche tanti insulti, una cosa che questa va condannata assolutamente, perché insulti, cose di morte, di cose che non stanno proprio in, cioè non intera, che andrebbe chiuso Facebook, no, andrebbero chiusi gli account di quelle persone quando arrivano minacce di morte, offese e cose di violenza che andrebbero assolutamente eliminate. Ma ha pagato lei il biglietto? Curiosità. Certo, un biglietto scontato. Quanto costa il biglietto? È costato 6 euro a persona, 10 ragazzi, e un biglietto normalmente la piscina fa a tutti gli enti che lavorano nel sociale. Se io lavoro con con persone con handicap, ci sono questi prezzi, no? Sono persone molto brave e corrette, quindi hanno fatto un prezzo per il sociale. Ma altra domanda, le faccio le pulci. Era la prima volta che andava in piscina con dei parrocchiani di quel tipo, o c'era stata altre volte, mettiamo a caso, con degli italiani? Abbiamo fatto con i ragazzi esperienza al mare, e andremo al mare anche con i migranti. Primi settembre andremo al mare, metteremo di postare qualche forno, almeno ci divertiamo ancora. Okay. Senta, lei ha detto che è contrario alla distinzione tra profughi e migranti economici. Sul codice Minniti, che assolutamente arrabbiato. Negativo, perché non si può risolvere il problema dell'immigrazione delegando il flusso, la gestione del flusso migratorio ad un paese che è in mano a banditi, briganti, faccendieri e semigoverni come quello libico. Beh, però la Guardia Costiera Libica, il comandante, nega tutto questo e dice che loro fanno tutto in regola, non sparano sulle barche, assolutamente. È bene che sappiano che attualmente in Libia ci sono migliaia persone, bambini in gran parte, perché l'immigrazione di bambini che attualmente sono in quei lager sono soggetti a persone senza scrupolo, quindi senza cibo, picchiati arbitrariamente, uccisi, anche perché se tu esci dal lager dove sei rinchiuso magari perché hai sete e vuoi ti sparano, ti ammazzano. Se non paghi quando arriva il momento di saltare sul barcone, quelli ti ammazzano e ti pigliano gli organi e te li vanno a vendere in Egitto. Senta, un'altra domanda. Il Papa ha detto, si è espresso sullo Ius Soli indirettamente a favore, no? Lei che ne pensa? È a favore anche lei, immagino? Siamo orientativamente, penso ad una soluzione che sia giusta, cioè. Una persona che nasce, insomma, vive sul territorio, perché no? Però ci sono tanti politici cattolici, che si dicono cattolici, tipo Salvini, tanto per dirne uno, sono quelli del pugno duro con l'immigrazione, che dicono il Papa parli alle coscienze, la politica si occupi della politica. Lei la condivide questa distinzione? Ascolti, cioè, allora, cosa ne pensa dei politici cattolici che non seguono quello che dice il Papa? Non siamo soldatini in ascolto del Papa che dirige tutti. Allora, la Chiesa ha una dottrina sociale, ha un insegnamento sulle questioni sociali. La Chiesa non parla solo di anime e di spirito, ha da sempre, specialmente per il Consiglio Vaticano II, un insegnamento sui temi della pace, della giustizia e anche dell'immigrazione. Papa Francesco ha rivalutato questo insegnamento, l'ha riportato in auge. Sì. Quindi è un insegnamento forte. Allora, un cristiano che va in politica si deve seriamente confrontare con questo insegnamento. È un insegnamento etico di altissimo valore, perché il discorso dei rifugiati non è che l'ha inventato il Papa. Se tu leggi il Vangelo, Matteo capitolo 25 dice che tutti saremmo giudicati se avremmo dato da bere all'assetato, da mangiare all'affamato, accolto lo straniero. È un principio etico che esiste da sempre, esiste da quando c'è l'umanità. L'umanità si forma su queste cose, sul coraggio di aprire le proprie porte al lontano, a colui che non si conosce. Senta, l'ultima cosa che molti ascoltatori si staranno domandando, glielo chiedo io. Lei riceve finanziamenti per gestire i migranti? Allora, guarda, io ti dico la mia storia, poi ti faccio un'osservazione generale. Allora, io ho fatto... Ma magari mi risponde anche alla domanda, en passant. No, scusami, è un discorso complesso. Lo so, ma la domanda è: riceve finanziamenti per gestire allora, i migranti? Io ho un accordo alla prefettura per 10 persone, ho fatto scelta di piccoli numeri. Allora, però nella mia parrocchia io accolgo anche persone migranti presi dalla strada. C'è questo fenomeno dei ragazzi che escono da percorsi d'accoglienza e finiscono in mezzo alla strada. Cioè quelli che non sono più sotto protezione, per cui non hanno più i 35 euro, però lei c'ha anche quelli. Perché finito 2 anni d'accoglienza, ragazzi, dove vanno? Quanti ne ha adesso nella sua parrocchia? Io ne ho 20 o la prefettura, 25 presi dalla strada, ho 10, 12 persone italiane senza fissa dimora. Va bene, grazie, devo chiudere, grazie mille, devo chiudere, abbiamo finito. Don Massimo, da Vicofaro, Vicofaro, 800 24 00 24, GR. Si può fare. Il segnale orario vi è offerto da il mio piatto migliore, quello grande, per le pizze Roncadin. Roncadin, nel banco freezer. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi, ti conviene. Vi presento. Si può fare. Cronache da un paese migliore. So 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. Io sarei per portare l'obbligo scolastico a 18 anni, perché guardate, noi continuiamo a dirlo in sedi seminariali, in convegni pubblici, ma un'economia come la nostra, che vuole davvero puntare su crescita, benessere, deve puntare sull'economia e sulla società della conoscenza. Quindi proprio investire sull'apprendimento permanente, secondo me, è un elemento fondamentale. Il ministro Fedeli dal meeting di Rimini, era un po' che non si parlava di riforma dei cicli scolastici, per fortuna, anche perché di riforme ne abbiamo avute talmente tante che non si faceva in tempo ad assorbirne una, ne arrivava un'altra. Però lei dice portare l'obbligo scolastico a 18 anni, è una sua al momento solo una sua personale opinione, non c'è nessuna ipotesi di riforma, però è lei il ministro, quindi 800 24 00 24. Ben ritrovati con Si può fare. Qualcuno scrive: ma la zanzara è stata soppressa? No, la zanzara è in vacanza, beati loro, bontà loro, bontà nostra, noi siamo qua. Poi dalla prima settimana di settembre ripartirà tutto nelle collocazioni originali, cioè Si può fare il mattino del sabato e della domenica e la zanzara la sera, tutte le sere. Don Massimo Biancalani, abbiamo sentito in chiusura della prima ora il prete che ha portato alcuni profughi, ne ospita una ventina nella sua parrocchia, a migranti, profughi in piscina. Non ci sarebbe niente di straordinario, se non che ha postato una foto sui profilo social, il suo, dando l'impressione di una sorta di fancazzismo a spese del contribuente, così l'ha interpretata Salvini. Se andate sul profilo di questo signore ci sono spatafiate contro la Lega, contro i fascisti, contro i razzisti, contro i nazisti, contro i venusiani, i marziani, gli alieni e contro chiunque non stia simpatico a un parroco che io ero rimasto al mio catechismo dovesse semmai aiutare i peccatori a ritrovare la retta via, che poi nella sua pagina continua a postare foto dei migranti che a spese nostre, buon per loro, si divertono e vanno in piscina, magari qualche parrocchiano, lavorano. Io ne ho sentiti tanti, dice piacerebbe anche a me andare in piscina. I sindaci di Ischia insieme tutti dicono: l'abusivismo non c'entra nulla con i crolli dovuti al terremoto. Questa richiesta del magistrato non, non me la spiego, anche perché basterebbe fare un giro con le vostre telecamere per rendervi conto che le case crollate sono istituti di, sono immobili di vecchia data, molto vecchia. Sul dissesto idrogeologico nel 2014 noi abbiamo trovato 2 miliardi e mezzo di soldi non spesi, e idem sull'edilizia scolastica, più di 2 miliardi e mezzo di soldi che erano stanziati da anni e mai utilizzati. E allora, è con noi Francesco Peduto, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. Buongiorno. Buonasera. Buonasera. Sì, buongiorno. È estate, c'è ancora luce. Allora, Peduto, qua il problema, ne abbiamo discusso con poco fa, ne abbiamo parlato con il sindaco di Forio, per la verità un sindaco di una zona non, che non ha avuto crolli a Ischia, però la domanda vale lo stesso: come ha potuto un sisma di magnitudo 4.0 generare dei crolli, come avere questo impatto, no? Come è stato possibile secondo lei? Lei dice ci sono delle altre circostanze aggravanti, quali sono queste circostanze? Ma ci sono innanzitutto e probabilmente delle circostanze tecniche. Perché guardare in TV, come dire, i danni e gli effetti di questo terremoto, con le case sbriciolate, i cumuli di macerie, non può non lasciare sconcertato, in considerazione della semplice magnitudo del sisma, anche se è stata rivista in rialzo dagli NGV ed è passata da 3.6 a 4. Sì. Cioè, è probabile che a questa bassa magnitudo ci siano associate delle accelerazioni elevate che hanno sprigionato grandi quantità di energia, però ciò nonostante l'entità dei danni si può spiegare solo con la presenza, come dire, di manufatti fatiscenti dal punto di vista strutturale e della qualità costruttiva, dove magari avranno contribuito in negativo anche le amplificazioni locali del sistema, i cosiddetti effetti di sito che noi geologi richiamiamo sempre e dovuti alla natura dei terreni e alla conformazione morfotopografica dei luoghi. Però mi consente di dire, come abbiamo detto nel nostro comunicato, che per un terremoto di magnitudo 4, nonostante tutte queste aggravanti tecniche, non si può continuare a morire per terremoti di questa natura, ecco. E quindi questa era la valutazione tecnica. Dopodiché la valutazione, come dire, più politica tra virgolette sul abusivismo, insomma, voglio dire, io credo che nessuno si sia sbilanciato a dire al momento che le case crollate sono case abusive. Abbiamo semplicemente evidenziato, almeno parlo di me, dei miei colleghi geologi, che proprio nei giorni scorsi si era tornato a parlare di abusivismo, con le parole del ministro Delrio, insomma, in favore dell'abbattimento delle case abusive, e guarda caso questo terremoto ha colpito proprio un territorio dove questo fenomeno è un problema serio, e questo credo che sia innegabile da parte dei sindaci. Difatti oggi leggiamo numeri impressionanti sull'abusivismo che riguarda quest'isola. Ovviamente, come dicevo, non è dato sapere al momento, e di questo nel caso se ne occuperà la magistratura, se i fabbricati crollati o quelli semplicemente danneggiati sono regolari o meno. Quello che abbiamo sentito poco fa, il sindaco di Forio dice che domanda di condono, e andiamole a vedere queste carte. Lui dice, a prova di essere smentito, ma il sindaco tra l'altro di un altro comune, dice che si tratta di edifici anteguerra nella maggior parte dei casi, in pochi casi post guerra, e secondo lui che non hanno nulla a che fare con gli abusi. Mi viene da dire, è difficile crederci in un'isola nella quale ci sono 30.000 domande di condono con 60.000 abitanti. Io dico che gli abusi possono essere di varia tipologia, non è detto che sia semplicemente una casa del tutto abusivo, ma spesso anche, come dire, un piano in più, un vano in più può mettere in crisi il sistema, insomma, se tra l'altro è già un sistema vecchio, fatiscente e per il quale non ci sono state, nessun tipo di verifica tecnica e geologica, non ci sono state verifiche sismiche, insomma, e così via. Insomma, dico, in ogni caso, questa è una situazione deleteria che andrebbe debellata, insomma, una volta per sempre. Ecco, perché non c'è alcun dubbio che in ogni caso, in caso di terremoto, questo tipo di strutture, questi tipi di fabbricati sono quelli a maggior rischio, proprio per le caratteristiche che le contraddistinguono e i mancati controlli. Allora, le cose da fare si dicono ogni volta, no? I piani di informazione nelle scuole, ma anche i piani di evacuazione per nei casi di emergenza, la messa in sicurezza degli edifici soprattutto, no? La demolizione di quelli che sono proprio irrecuperabili in qualche modo. Lei ha detto il governo e il Parlamento si assumano per una volta le responsabilità e vadano contro le lobby, non si facciano distogliere dalle lobby. A quale lobby si riferisce? Ma mi riferivo soprattutto a quella che impedisce, per esempio, da anni di far diventare una norma di questo Stato il fascicolo del fabbricato, il famoso certificato di fabbricato o la certificazione sismica, insomma. Di cosa si tratta? Spieghiamolo bene agli ascoltatori, no? Che cosa sarebbe? Io per far capire di che cosa si tratta faccio sempre un esempio banale, sì. E lo paragono al libretto pediatrico di un bambino, cioè il posto dove segnare le malattie, le cure, le eventuali ricadute e così via, e soprattutto dove puoi mettere una scheda sull'adeguatezza, sulla certificazione sismica di quel fabbricato alle norme attuali. Assolutamente. Ma è vero che non si fa perché ci vuole... Sì, è vero che non si fa, scusi Peduto, perché poi bisogna andare sul concreto, no? Perché qualcuno dice non si fa perché altrimenti il valore di una quantità enorme di edifici pubblici, privati anche italiani, qualcuno dice addirittura un terzo cadrebbe proprio perché bisognerebbe certificare che non sono costruiti in base alle norme vigenti attualmente, non a norma antisismica, non del tutto sicuri, eccetera eccetera. È questa la paura che c'è? E la lobby è quella dei proprietari di casa? È una delle paure, certo, ma poi bisogna avere comunque il coraggio di rivoluzionarlo questo mercato immobiliare, mettendo al primo posto nelle valutazioni del valore di un immobile come dire, la sua sicurezza e non la sua bellezza o la sua localizzazione urbanistica, il fatto che sia situato al centro di una città anziché in periferia. E soprattutto poi, diciamo, da queste lobby basta con la mistificazione, come dire, dei tecnici che si arricchirebbero con il fascicolo del fabbricato. Far conoscere, secondo me, ai cittadini lo stato di sicurezza dell'immobile dove vivono o dove lavorano, oltre che una misura di salvaguardia e di prevenzione civile, perché aumenta il grado di consapevolezza dei cittadini, insomma, su queste cose, è anche un atto morale nei confronti della popolazione. Poi però c'è anche un aspetto, no, economico, perché il sindaco di Forio diceva dobbiamo far pagare assolutamente ai privati la messa in sicurezza degli edifici, è una questione loro, però poi noi sappiamo spesso i privati non hanno o i soldi a disposizione o dicono di non averli e spesso questi interventi non vengono fatti. Ma sarebbe assurdo immaginare una sorta, diciamo così, non di condono ma di sanatoria, il fascicolo di fabbricato, stabiliamo che ci sono tot edifici in Italia, tantissimi, che hanno bisogno di un intervento, però questo intervento una volta per tutte lo paga lo Stato con delle defiscalizzazioni, con degli incentivi. Abbiamo gli incentivi per cambiare la cucina di casa, non possiamo avere incentivi al 90%, 95% per mettere in sicurezza dal punto di vista sismico gli edifici italiani? Sarebbe un'utopia questa qua, secondo lei? Beh, guardi, io le dico questo perché insomma io ho detto una serie di cose, però a me piace dire la verità, e proprio in questo senso qualcosa si è avviato con il famoso sisma bonus, no? Nella legge di bilancio, insomma, è stato messo come dire, insomma, questo è stata fatta questa azione in favore appunto di defiscalizzazione e altre cose, insomma, rimborsi spese e così via, insomma. Però come dire, questa andrebbe rivisto nelle procedure e successivamente potenziato ed esteso, perché al momento è molto limitato, ma soprattutto dal mio punto di vista quello che manca è una reale conoscenza del territorio, cioè sono tutta una serie di azioni e di misure a livello microterritoriale che possano aumentare appunto la conoscenza del territorio. Le dico per esempio due cose che riguardano noi geologi: ci sono state iniziative politiche per rifinanziare la carta geologica, c'è cioè un progetto, il CARG, sì, che è iniziato nell'88 e mai completato, oppure gli studi di microzonazione sismica, perché abbiamo detto tante volte che spesso la differenza tra una casa che crolla e una che resta all'impiedi, anche a parità di costruito e di età del costruito, è quello che ci sta sotto i piedi, cioè sotto le fondamenta delle case, i cosiddetti effetti di sito, le amplificazioni locali, insomma, il così tipo di suolo, insomma, il tipo di faglie che ci sono, il tipo di terreno. Sì. Però anche queste iniziative politiche si sono perse nelle paludi parlamentari. Ma poi la conoscenza dei cittadini, ma perché è difficile da noi, per esempio, insegnare a partire dalle scuole a come comportarsi durante un sisma, quando le statistiche continuano a riferire che ogni volta tra il 20 e il 50% delle vittime si hanno per comportamenti sbagliati durante gli eventi? Perché queste cose le possono insegnare in Giappone, le possono insegnare in America, e noi non siamo capaci di insegnarle ai nostri cittadini? Insomma, questo per farle un esempio, che al di là, come dire, dei grandi progetti di Casa Italia, di Renzo Piano, e sì, tutte le volte si parte con grandi slancio, poi ci sono c'è una lo serie sbluff di cose a livello microterritoriali da fare. Ricostruita la filiera delle competenze e delle responsabilità. Assolutamente, però ci vuole anche, cosa, mi scusi, lo dico cosa, io, Peduto, ci vuole, io mi immagino, faccio questo sogno, un governo che va a Bruxelles e dice gli investimenti, i soldi pubblici che metteremo negli investimenti per recuperare il suolo, gli edifici in Italia dal rischio sismico, l'Italia ad alto rischio sismico, li togliamo da tutti i vincoli, da tutti i parametri europei, e l'Italia spende 20-30 miliardi di euro l'anno nei prossimi 10 anni per mettere tutto in sicurezza, tutto quello che c'è da fare. Daremo da lavoro a decine, centinaia, migliaia di persone, e non vedo chi potrebbe dire di no, di non farla una cosa del genere, però resta un sogno. Questo al momento lo diciamo da tempo, però la verità, e prevediamo anche tempi più lunghi, però bisognerebbe pure iniziare una volta per tutte. Bisognerebbe iniziare, anziché annunciare Casa Italia, Casa qua, Casa là, che poi sono spiccioli tutte le volte e non si va da nessuna parte, fare qualcosa di più ambizioso. Nel frattempo quello che abbiamo è il DDL Falanga, approvato in Commissione Senato, lei saprà, che inserisce la categoria dell'abusivismo di necessità. Cioè, tra i criteri per approvare le demolizioni degli edifici abusivi, l'abusivismo di necessità porterebbe all'ultimo posto quelle case costruite da persone abusivamente, ma che poi dimostrano di averne necessità, di doverle abitare, eccetera, eccetera. Lei che ne pensa? E siccome sappiamo che i soldi poi per demolire tutto non ci sono, di fatto quelle case non verrebbero demolite. Lei che ne pensa? Io sono molto perplesso su questi aspetti. È una delle classiche cose all'italiana in cui quando si fa qualcosa si prova subito a trovare l'escamotage e a mettere la pezza per poter fare a meno di rispettare quello che si sta facendo. Va bene, grazie, buonasera al Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto. Grazie. 800 24 00 24, c'è la borsa, torniamo tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, si riparte con gli ascoltatori. Roberto da Milano. Vai, buonasera. Buonasera, carissimo. Eccoci qua. Però abbassa la radio, ascoltaci solo al telefono. Tutto a posto. Vai. Dunque, volevo rispondere al prete, sì, che ha telefonato prima, semplicemente per sono abbastanza incazzoso su questo, perché lui fa presto a dire che porta gli extracomunitari in piscina, i quattrini di 35 euro al giorno, quello che è, quello che non è. Però volevo ricordargli, lo sa molto bene anche lui sicuramente, che ci sono bambini italiani che non solo non riescono a riescono a fare vacanze, che non riescono magari a mangiare, si parla di 4 milioni e mezzo di famiglie veramente disperate, Allora io dico semplicemente, ma se uno è malato in maniera tale da essere quasi infermo o invalido, come fa a curare le altre persone? Forse è meglio che magari prima si cura lui. Cioè il malato sarebbe l'Italia, gli italiani. Il malato è l'Italia, perché anche i nostri politici sono maledettamente malati, perché non sono certo i figli dei nostri politici che non vanno, vanno al mare e sono tutti sulle barche sarde della Costa Smeralda. Allora io dico, prima di fare ragionamenti anche a livello clericale, perché poi questo ci mette a parlare del però scusa Roberto, tutto quello che vuoi, sì. Però non si può dire che la Chiesa non abbia aiutato e non aiuti anche quotidianamente un sacco di italiani, questo non si può dire. A domanda Don Massimo dice che ospita anche degli italiani senza fissa dimora eccetera, e comunque la Chiesa si sa che lo fa, non è che non lo faccia, poi che lo faccia troppo poco può darsi, ma che non lo faccia credo sia difficile da dire. Devo dire una cosa però, sì. A questo senso. Allora, stiamo parlando di una religione che è vecchia di 2000 anni. La tecnologia sta sconvolgendo tutto e di più. La gente non è ignorante. Questa gente qui vendeva l'indulto nel po' di tempo fa, e ti vendeva l'anima a Dio se gli portavi i polli salami. Cioè non è più così, il mondo è cambiato anche a livello culturale, quindi anche la Chiesa, prima di fare certe affermazioni, dovrebbe stare un pochino attenta. Va bene, grazie. Ciao Roberto, ciao, grazie. Luigina da Arezzo. Buonasera Luigi. Io niente, ci tenevo invece, il mondo è bella apposta perché ognuno la pensa. Volevo dimostrare invece tutta la mia solidarietà a Don Massimo, soprattutto perché, come prete, come persona, per la sua argomentazione, e se mi spaventa questo periodo storico complesso, difficilissimo, che nessuno risolverà il problema delle immigrazioni, mi spaventa di più il livore, l'odio di fronte alla sofferenza, invece di risposte complesse la gente tende a semplificare, e questa disumanizzazione non porterà sicuramente, saranno momenti difficilissimi, ma la disumanizzazione non porterà da nessuna parte. Mi spaventa più questo che tutti i problemi complessi dell'immigrazione. E per fortuna c'è ancora qualche persona, al di là del Vangelo, ma con un'umanità e una capacità di leggere la realtà senza livore, senza odio, che un pochino mi dà speranza, altrimenti davvero mi preoccupa e mi fa star molto male. Ma tu male sei, questo Luigina, livore in giro. Sei cattolica, praticante, credente? Se te lo posso io chiedere. Sono certo, ma questo non mi serve da alibi. Io credo in un'umanità migliore, ma non è che credo, cioè l'uomo ha bisogno di umanità, ma non al di là della credenza in Cristo o in cioè l'uomo, se non rimane umano davvero ci stiamo perdendo. Va bene, questo grazie. Mi spaventa più di tutto. Un saluto a tutti. Grazie, un abbraccio Luigina. Andiamo con Enea da Terni. Vai Enea. Buonasera. A lei e a tutti gli ascoltatori. Innanzitutto non vorrei peccare di presunzione, perché volevo fare alcune precisazioni in merito a quello che ha detto il Presidente degli Ordini dei Geologi, che ha fatto più un discorso più politico e meno tecnico, mi è sembrato, contro l'abusivismo, perché di fatto Ischia è un vulcano ancora attivo, se si può considerare, ed è molto vicino ai campi Flegrei che stanno in ricompiamento, quindi la natura del sisma dell'altra sera, di ieri sera, è vulcanico, è totalmente diverso da quello che si genera nel continente, dove si generano i terremoti per i movimenti delle placche. Però a livello energetico è stato detto da sismologi che 4.0, quello di Ischia, è mille volte inferiore come energia rispetto al 6. Sì, perché siccome sono vulcanici e quindi avvengono molto superficialmente e hanno un campo molto probabilmente circoscritto, perché però, e quindi sono molto più distruttivi. Probabilmente, sono però molto, questo molto Peduto l'ha detto, in una parte del suo intervento iniziale, breve, ha detto gli effetti di suolo, cioè bisogna considerare gli aspetti tecnici, gli effetti di suolo. Sì, ma lui dice gli effetti di suolo, ma non il fatto perché sotto 5 chilometri nei vulcani la terra si fonde e non può generare terremoti, quindi deve essere per forza dovuto a un ricompiamento superficiale. Quindi Enea, alla fine del tuo discorso qual è? Cioè la morale di quello che stai dicendo qual è? Che Ischia non può essere preso come l'abusivismo, il discorso che queste case sono crollate semplicemente perché sono mal costruite e abusive, ma perché quel tipo di terremoto che ha fatto Ischia è totalmente diverso da quello che ha fatto Va bene, ma anche, ammettiamo anche che sia vero quello che dite voi, no? Però io mi domando, dire a poche ore dal terremoto, nemmeno 12 ore, che l'abusivismo, senza neanche sapere bene quali edifici sono crollati, se erano abusivi o no, se avevano una veranda o una cantina, o se a fianco c'era un balcone abusivo, non c'entra nulla, non è un po' troppo? Cioè non era meglio stare calmi un attimo e magari subire qualche... Non c'entra nulla, sicuramente è una con causa essenziale, però volevo dire non è solo perché le case sono abusive, perché non tipo è solo di però no? Loro dicono che non c'entra assolutamente nulla, questo secondo me è arrampicarsi sugli specchi. Ecco, allora vedi che perché... su questo siamo d'accordo. Grazie Enea, grazie, buona serata. Anna da Roma, vai. Buonasera. Prego. No, io volevo rispondere all'intervento della proposta del ministro dell'istruzione. Sì, la Fedeli. Esatto, per innalzare appunto l'obbligo scolastico a 18 anni. Volevo dire che sono sorpresa e contenta finalmente che qualcuno abbia fatto questa proposta, perché nell'era in cui, non dico con un diploma, ma anche con una laurea, questi giovani non riescono facilmente ad integrarsi nel mondo del lavoro, figuriamoci senza un diploma, quindi era ora, da un certo punto di vista proprio istituzionale, dico, che appunto il governo facesse una cosa, una proposta del genere. E poi sono contenta perché ho due figli, sì. 18 e 21, quindi per fortuna non nella mia famiglia, ma nelle amicizie laterali ho visto molti ragazzi dai 15 ai 18 anni andare in grossa crisi scolastica. E quindi? E quindi ho visto anche che loro, anche se non sembra, anche se possiamo parlare due ore di quanto siano imprudenti o incoscienti, però siccome hanno bisogno di regole forti, a un certo punto, cioè quando vanno in crisi vera, parliamo di crisi importanti, loro la regola forte comunque la considerano. Cioè andare in crisi, dai, poi qual è la fine di questo ragionamento, Anna? L'obbligo scolastico servirebbe per far rientrare queste crisi, alla fine potrebbe aiutarli in parte a quella categoria di ragazzi che non ce la fanno, penso di non farcela, laddove sanno che possono lasciare, perché appunto l'istituzione non gli dà nessuna regola, lo fanno immediatamente. E ovvio che a questa proposta andrebbe collegato una linea guida che aiuta questi ragazzi in crisi e la famiglia soprattutto. Non lo so, Anna, tutto può essere, io non sono un esperto, fino ad oggi la scuola, pur senza un obbligo di arrivare a 18 anni, nella maggior parte dei casi tutti i ragazzi in quell'età la fanno perché pensano che sia una scelta obbligata, pur senza essere obbligatoria. Quindi è il valore della scuola che è stato percepito fino ad oggi. Se questo valore viene meno, non so se l'obbligo di per sé possa compensare la crisi di valore che può avere oggi la scuola italiana. Non lo so. Sentiamo cosa ne pensano gli altri ascoltatori. Lei era favorevole. 800 24 00 24. Andiamo con Luigi di Venezia. Vai Luigi. Buonasera a voi e grazie per avermi dato un po' di spazio. Sono indignato per quanto riguarda, anzi ti ringrazio per aver chiesto al sacerdote se percepiva praticamente dei compensi alla fine, e lui non ha risposto, nonostante la tua insistenza, ma la tua educazione è ineccepibile. No, ha detto che li riceve, sì. Per alcuni, non per tutti. Ma non per tutti. Allora, va bene questo. Io sono cattolico credente praticante e credo di apprezzare moltissimo quello che sta facendo il Papa Francesco. Però le ONG e i casini in generale, tutto il resto, non entro nel merito perché ci sono una barcata di soldi e altri interessi e altre situazioni dietro che non sto qui a dire. Per diretta presa, ma non per tutto quanto. Sono indignato invece per quanto riguarda il discorso abusivismo. Se ne parla a poche ore dai crolli che sono stati a Ischia. L'abusivismo, lo dice la parola stessa, è un abuso e per questo va perseguito e condannato. Punto. Che sia una buona costruzione con il certificato, quello che tu prima menzionavi, il certificato di costruzione, quello che in Spagna si chiama certificato di staticità, quello è obbligatorio. Senza quello non compri, non vendi casa. Allora, queste persone hanno costruito abusivamente e con quali criteri? allora mi devono spiegare con quali criteri. Io se presento un progetto che deve essere esaminato, vogliono sapere i materiali, vogliono sapere cosa uso e tutto come viene costruito. Ma stiamo scherzando o stiamo facendo sul serio? Questo paese non migliorerà mai. Io me ne pento di aver essere ritornato in Italia. Dov'eri, Luigi? Dove sei stato? Negli Stati Uniti, sono ritornato a Venezia, ma sono orgoglioso di essere di quella terra della costiera amalfitana. Io sono orgoglioso, ho vissuto il terremoto dell'Istinia con la vergogna di Stato dei politici dell'epoca. Quindi per me non ho vergogna di dire le situazioni come stanno, mi vergogno di essere italiano. Va bene. Perché noi all'estero siamo delle persone che siamo veramente portati in palmo di mano. Ma come mai questo paese non migliora? Tutti si scandalizzano di Salvini. Salvini cavalca la voce del popolo. Grazie Luigi, grazie. Dobbiamo fermarci, c'è il traffico, grazie. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, si sente spesso dire, no, che si potrebbe spendere meno, vivere con poco, vivere spendendo meno di quello che spende mediamente, per esempio, ogni famiglia italiana, addirittura spendere un euro al giorno. Noi ne abbiamo trovate due di persone che vivono così, ve li presentiamo, sono una coppia, Silvia e Roberto, è con noi Roberto Belli, buonasera, benvenuto. Buonasera. Allora, lui e la sua compagna, è uscito fuori in questi giorni, ma insomma, devo dire che ogni tanto è ricorrente questa cosa, si sente di persone che affrontano questa sfida, poi la gente si chiede, ma sarà vero per davvero che vivono con 2 euro al giorno? Voi ce la fate veramente con 2 euro al giorno, Roberto? Sì, ce la facciamo per il nostro stile, ma non mangiando carne, non mangiando latte, essendo vegetariani. Ah, ecco, già questo è un bel risparmio, no? Sì, perché tutto quello che produciamo lo mangiamo noi, dopo Silvia è ben accurata nel mettere via i prodotti per l'inverno, sì. Quindi tutto l'anno siamo con l'orto. Pieni con l'orto, perché l'orto è una risorsa fondamentale. Ecco, infatti il punto di partenza, la base di tutto, c'è il capitolo più complesso, la casa, no? Perché uno già, se deve pagare un mutuo o un affitto, non puoi spendere 2 euro al giorno. Voi come siete messi con la casa? Allora, abbiamo anche noi il mutuo, naturalmente io ho un lavoro saltuario, sì. E riusciamo a coprire il mutuo e andare avanti tranquillamente. E dove, in che zona siete d'Italia, per capire anche il livello di... Siamo nella provincia di Mantova, nel comune di Asola. Quindi una zona normalissima. Capitolo energetico, le bollette, cioè saranno anche le bollette, no, da pagare, quelle non è che puoi non pagarle, come fate? Allora, Silvia e io lavoravamo a tempo pieno fino nel 2011, dopo Silvia ha perso il lavoro, però prima sono stati fatti dei piccoli investimenti per la casa, abbiamo fatto il fotovoltaico, quindi riusciamo a sopperire, essendo una casa avete i pannelli, con energia elettrica, esatto. Perfetto, esatto, e quindi non pagate. Tutto prima del... Non pagate un tubo, anzi forse incassate, siete anche di quelli che vendono poi l'energia in surplus alla rete. Capito. Funziona questa cosa? Qualcosina, è sempre piccola. Questa deve essere una soddisfazione meravigliosa, invece di pagare la bolletta sei tu che vieni pagato perché hai ceduto un po' di energia. Fantastico, in un'altra vita lo voglio fare anch'io. Capitolo, perché poi la casa, le bollette, energie, prese elettriche, va arredata, mobili, i mobili. Diciamo che... Noi siamo un po' strani, nel senso che abbiamo tante persone che ci conoscono e abbiamo tanti mobili spaiati, perché ma uno ci regala un cassettone, ma vieni a portarmi via un mobile che è di una signora che conoscevamo. Abbiamo tante cose recuperate. Cioè siete pieni di cassettoni praticamente, però non avete un tavolo. Sì, o anche la cucina, chiamiamo la nostra, dove abbiamo il forno, l'abbiamo recuperata e dobbiamo andare in discarica. L'abbiamo sistemata un po' e... Vabbè, è stato tutto fatto con, diciamo, le cose primarie sono state coltate prima del, diciamo così. È vero però che a tutti capita prima o poi di avere un tavolo che t'avanza, una credenza, una scrivania, un divano, perché magari sei deciso a cambiarlo, perché vuoi fare quella spesa lì, perché non ti piace più, e allora non sai che farne, no? Io ho provato anche a metterli su eBay e venderli, però nessuno li vuole. Allora invece c'è gente come voi o anche altri che avrebbero bisogno, e qui torniamo agli italiani che hanno bisogno, italiani o stranieri che siano, e invece di buttare in discarica, fare come fate voi, recuperare cose che magari possono anche ora avere una seconda vita. Bisognerebbe, ogni città dovrebbe avere una, non l'oasi ecologica, ma l'oasi del recupero, no? Dove la gente si scambia gratuitamente. Vabbè, ma questo è un altro capitolo. I vestiti, Roberto? I vestiti andiamo al mercatino dell'usato, o se no ce li regalano come al solito, perché abbiamo tante, per solito, risposto per tante persone che conosciamo che ci danno i vestiti che buttano via, e noi naturalmente li riutilizziamo anche quelli. Non saranno all'ultima moda, però. Sì, sì, però non abbiamo grosse pretese. Con i bambini si fa. Io ho due figlie e stiamo vivendo di roba che ci mandano, perché ovvio li usi per poco tempo e poi il bambino cresce e allora ti arrivano quelli della cognata, della cugina, del fratello. Sì. E poi da grandi si smette di farlo, perché chissà, perché si seguono le mode. Esatto, però invece voi continuate, ve ne fregate le mode tranquillamente. Sì, tipo adesso tu indossi dei pantaloni a zampa d'elefante degli anni 70, no, cose così, no larghi anni magari, 80. No, però magari dei pantaloni che hanno 7, 8, 10 anni, che magari un mio amico ha scartato e me li dà sempre a me perché sa che io li porto, posso buttarli via. Mm. Ma queste scelte le condividete con altre persone? Avete degli amici? Avere degli amici a volte può essere anche costoso, perché gli amici andiamo a cena fuori, andiamo al cinema, e sempre devi pagare qualcosa. Voi come ve la vedete? Ma noi di solito, avendo, diciamo, il forno, io, la mia passione è la pizza, avendo il forno risolviamo tutti i problemi, perché loro ti danno le cose e io gli offro una pizza. Ah, tu fai la pizza e inviti tutti a casa tua, sei tu la pizzeria. Sì. Fantastico. Ma per esempio, mi ha incuriosito, ho letto un'intervista nella quale dici che usate la cenere, credo del camino che avete, per pulire, no? Per lavare le stoviglie. Io l'ho sempre sentita dire questa cosa, ma è vera davvero? Si fa veramente? Con la lisciva. Cioè? Cioè praticamente si fa bollire la cenere e per X ore. Dopo l'acqua che rimane in sospensione viene filtrata, e quell'acqua lì è blandamente abrasiva e quindi pulisce e sgrassa. Allora, scusa, aspetta, bisogna stare un po' attenti. Fammi riepilogo: tu prendi la cenere del camino, la metti nell'acqua e la fai bollire. Tipo 300 grammi di cenere vanno controllati di acqua, vanno bolliti per X ore. Sì. Non mi ricordo più se 4-5 ore, adesso non mi ricordo più. Vabbè, tanto l'energia l'avete, c'avete i pannelli, quindi sta lì ore e ore a bollire. Quando è bollita la filtri. No, si lascia lì a riposare giorno, perché lei naturalmente la cenere, la parte solida, decanta. Deposita. Dopo si separa, si filtra la parte liquida dalla parte solida. Ah, e ecco. La parte solida è come se fosse il CIF. Serve per pulire il sanitario, le padelle molto molto incrostate e vengono pulite benissimo. Naturalmente bisogna usare i guanti perché è blandamente abrasiva. E dopo il liquido si può usare per pulire. Ma che meraviglia. Anche i vestiti per aumentare l'effetto. Anche per lavare i vestiti, ma non. Di che colore è questa roba? Perché mi sono sempre detto la cenere, però sporca la cenere. Invece questa roba qua non pulisce addirittura. No, è un liquido un po' marroncino chiaro, adesso non è niente di che. E dopo, quando la cenere si secca, praticamente il deposito si secca, si spacca un po' e si usa come Vim, come il Vim, come se fosse il Vim. E tu hai fatto un calcolo da quanti anni è che vivete in questa maniera, tu e la tua compagna? Dal 2011, praticamente abbiamo iniziato così per uno, non uno scherzo, però Silvia. Quasi. Silvia, quando ha perso il lavoro, si è un po' preoccupata, perché essendo sorda e non avendo la patente, così noi siamo in campagna, avendo difficoltà a recarsi sul posto di lavoro dovesse andare a trovarlo, mi fa: ma io, se tu muori, come faccio a vivere? Allora mi ha detto: sì, mi devo inventare qualcosa, ma sarà possibile farsi le cose. Piano piano lei diventati sempre più appassionati ed è diventata la nostra quotidianità. Praticamente, diciamo, adesso il vostro lavoro è procurarvi, come dire, il da vivere. Anziché andare a lavorare, vi procurate direttamente con l'orto, dovete fare l'orto, seguire l'orto, cucinare. Veramente lei a casa, io ho un lavoro saltuario e per pagare la macchina ce l'abbiamo, le piccole spese bisogna onorarle, le paghi tu. Comunque, un calcolo di quello che avete risparmiato dal 2011 ad oggi, non l'hai fatto un calcolo complessivo, ma si parla di migliaia di euro. Perché naturalmente quando abbiamo un pochino di disponibilità lo investiamo negli attrezzi, nelle cose che ci servono per migliorare il nostro prodotto o le nostre qualità, chiamiamola così. Visto che adesso nel mercato c'è disponibilità di tutto, quando possiamo cerchiamo di agevolare la nostra autoproduzione con degli attrezzi, chiamiamoli così. Va bene, grazie Roberto Belli dalla provincia di Mantova, complimenti. Lui e la sua compagna vivono con pochi, non 2 euro al giorno, ma anche se fossero 3 o 4, scusate, ma non è una roba da tutti, però mi sembra che siano abbastanza sereni e tranquilli. Forse non si può stare a 2 euro, ma si può stare magari nei paraggi, certe cose si possono risparmiare, soprattutto quando uno è in una situazione magari di necessità. Insomma, poi non è detto che questa cosa vada bene per tutti. Grazie Roberto, ciao. Alessandro dalla provincia di Roma, vai, siamo in chiusura. Buonasera. Allora, io sono contrarissimo ad innalzare a 18 anni l'obbligo della scuola. Perché? Perché la considero una cosa assolutamente inutile, per gli stessi motivi per cui quell'ascoltatrice diceva di essere favorevole, ma smentendo se stessa. Abbiamo già tanti laureati disoccupati. Sì. Ma cosa volete che serva avere dei più diplomati? Forse occupare qualche Vabbè, però andare a scuola, Alessandro, non fa bene comunque. Cioè, parliamo di minori che non dovrebbero lavorare a 12, 13, 14 anni, 15 anni. No, fermi. Allora, l'obbligo adesso già è a 16, quindi sì. Si parla di elevarlo da 16 a 18. Sì, va bene, 16, 17. Stiamo parlando di questo. Allora, a che serve? A nulla, a zero. E a che serve però, scusa, non andare a scuola? Adesso mi viene No, allora non stiamo parlando di non andare a scuola. Sì. Chi finisce a 16 anni oggi, evidentemente più in là non arriva. E sapete che vi dico che forse è quello che trova più lavoro, perché in Italia servono idraulici, servono pizzaioli, servono manuali. Beh, però possiamo avere, Alessandro, idraulici istruiti, cioè che iniziano a 18 anni, non a 14 anni. Potremmo avere anche se questo. Se io finisco a 16 vuol dire che più di là non arrivo. Se mi mettono l'obbligo a 18 sarò un somaro mandato avanti per forza. Ma infatti anch'io non sono però valeva anche prima, scusa Alessandro, quando è stato alzato l'obbligo che era più basso e si poteva fare lo stesso ragionamento. Allora torniamo all'obbligo della quinta elementare, cioè con tanta gente che non va più, non fa neanche le medie. Questo non lo so se capito? Pronto? No, ho capito. Ci sono. No, dicevo, non andiamo così indietro. È stato innalzato dai 14 ai 16. Tu dici, stiamo lì, come a 7 e mezzo. Sto. È servito? Vogliamo vedere le statistiche? Le statistiche dicono che è servito a nulla. Non ha abbassato i tassi di disoccupazione, quindi facciamolo, ma non serve. Non sto dicendo che faccia male. Sto dicendo che è inutile. È semplicemente inutile. Va bene, grazie Alessandro. Paolo da Treviso per chiudere, vai, però veramente in velocità, 30 secondi Paolo. 30 secondi sono stato da pochi. Tutto bene, la trasmissione è interessante. Diciamo che forse a volte, non ho capito come mai, la pubblicità arriva sempre a interrompere qualcuno che sta per parlare bene della destra. È una sensazione triste che uno ha, perché sembra quasi che ci sia una censura. Cercate di evitarlo, soprattutto se c'è qualcuno che sta affrontando... No, lo stiamo sfumando, proprio lui. No, mi dispiace, ma siamo in chiusura, veramente. No, è finito il tempo. Lo risentiamo domani, questo ascoltatore qua. Ciao, a domani, ciao.